l'ultima puntata di questo ciclo 2023-2024. E questo è Prove Tecniche di Trasmissione, naturalmente qui su Radio Onda Rossa, che modula su la 87.9, appunto in modulazione di frequenza, e www.ondarossa.info. Ricordo ancora una volta l'urgenza del nostro radio abbonamento, un'occasione che si può avere sino a settembre, affinché questa realtà autogestita possa andare avanti nel tempo, il che non è scontato. Quindi chi ama Radio Onda Rossa deve aderire a questa iniziativa. Ricordo 50 euro per un anno, quindi una spesa anche affrontabile. Sul sito c'è il banner specifico e l'adesione attraverso Produzioni del Basso. Collegati molti affezionati già, come dire, in magnifica attenzione. Saluto Maya in Umbria, Ernesti Panico Brusati di Panico da Palcoscenico, a Berlino Saraboy, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Chris Florido di Canto di Vesta, Simone Scalise di Radio Chaos. Anna qui a Roma, Marco Magia alla Sardegna, un saluto a Like Wake, a Tiziano Zero Farinacci di Pigreco, Valentina Manzoi dall'Aquila. Effervescente come al solito la nostra Venusia Zuzzetta Stramonio, al pari di Antonio Zoviet di Omicidio in quel di Firenze. Ricordo che alle 22.30 ci sarà 25 o'clock. Andiamo un po' a trovare Eddie Newton, un Eddie Newton che nel 2023, ma anche nel 2024, è stato particolarmente attivo sia con il ritorno dei Claude DVA sia con il ritirare fuori anche del materiale, diciamo sconosciuto, appartenente a Antigroup. Il lato più ermetico e sperimentale per questo artista inglese di Sheffield. Nel 2023, anche se poi è stato concepito come idea nel 2022, è uscito Amma, che in realtà va a riprendere delle sessioni, diciamo, rimaste nascoste, appartenenti a Digitaria, un vecchio lavoro di molti, molti anni fa. Cominciamo a conoscerlo questo interessante lavoro. Si apre con Ogol in Hard Pal. The psychological dimension in African healing is now increasingly recognized by doctors throughout the world as a serious and valid aspect of curative medicine. Thank you. Like other intensely religious peoples, the Dogon believe that death need be nothing final. Il ritorno misterico di Antigroup con Eddie Newton, musicista che calca le scene da molti molti anni. Scusate la piccola pausa, sono dovuto ad aprire la porta per il buon 25 o'clock. Dicevo, Eddie Newton, personaggio storico della scena elettronica industriale, che come giustamente ricorda il sempre informato Anton Zowiet, al pari di Venusia, nella sua carriera ha fondamentalmente diviso due settori, uno più elettroindustriale appartenente a Claude DVA, di cui è ritornato con un album molto molto interessante dal nome Noesis. Questo da un lato, dall'altro invece l'aspetto più prettamente sperimentale, occulto, talvolta anche free jazz, appartenente da Antigroup. E c'è anche un'attività con il suo stesso nome, Eddie Newton. Lavoro del 2022, si chiama Amma, come ho detto, è andato a recuperare delle sessioni non stampate in digitaria di molti molti anni fa. Si avvale anche della collaborazione in questa circostanza del buon Fabio Kubic, Giacco Agulant e in passato ancora Matter. È un disco che esce anche con la collaborazione della Rizosfera, un'interessante realtà anche, diciamo, libraria qui in Italia. Io, quando ho ordinato il disco di Claude DVA, in maniera inaspettata mi sono arrivati anche questo qui di Antigroup e anche uno di Eddie Newton insieme a una compilation, quindi hanno avuto anche un comportamento, come dire, ultra etico nei miei confronti. Sono tutte cose che prima o poi ci ascolteremo nel mio ritorno in settembre. La traccia di apertura si chiamava Ogo Lenard Pal. Come tutti gli album di Antigroup ci sono dei riferimenti letterari, scientifici. Saluto Nicola Locci. Ce lo siamo ascoltato la scorsa settimana con Stigmate, estratta dalla compilation a me dedicata. Saluto Giulia Vassena e noi andiamo avanti. Per la gioia di Venusia non ci sarà Franco Battiato questa sera, lo abbiamo ascoltato per molte settimane, partendo dall'anniversario della sua morte, accaduta il 18 maggio di 3 anni fa. Quindi abbiamo rivisitato molto del suo iniziale materiale. Ora andiamo dagli Einsturzende Neubauten, usciti con un nuovo lavoro dal nome Rampen. Lavoro interessante, sappiamo ormai, è inutile dirlo, le evoluzioni che nel corso degli anni hanno avuto questo gruppo di Berlino, dagli iniziali radicalismi industriali si è passato a una forma canzone più intimista, oscura, anche se di tanto in tanto ci sono dei rimandi alla tradizione e ai clanglori industriali degli esordi. E questa sera ci ascoltiamo Haus den Zeiten e Ich weiß nicht, noch nicht. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Het is alles verschoben. Dit is nicht hier und auch nicht da. Noch nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was sich da nun verschoben hat. Das ist nicht mehr da, da wo es mal war. Und auch nicht da, wo es sein sollte. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Irgendwie schief. Und alles hat sich aufgelöst. Wat nu? Irgendwann is het denn so weit? Denn is het da, aber noch. Bisogna anche considerare che sono più di 40 anni che esistono gli Einstürzende Neubauten. Hanno saputo rinnovarsi e cambiare un attimino il registro, ma ritengo che rimangano su livelli veramente interessanti, validissime. Haben Minen sich versteckt. Saranno qui a Roma il 1° ottobre, se non ricordo male. C'è anche una tournée in altre città che al momento non ricordo, credo al nord. Letzte Ausfahrt. Kleine Diamanten aus grauer Vor. Rampen, APM, Alien. Jura, Silur. Alien Pop Music. Saluto Mariano che ci sta ascoltando qui da Roma e Jean-Claude Bertot invece puntualmente dalla Val d'Aosta è entrato proprio mentre andavano Antigroup. Rituale. Was ist noch übrig? E adesso ricominciamo un po' a Schleuse Druckabfall. Deliziarci con le compilation di Raffaele Pezzella attraverso la sua Unexpressed Sounds Group. Lo abbiamo conosciuto in questo modo, con questo approccio, attraverso i vari compendi provenienti da ogni parte del mondo. Moloch. E quindi questa sera cominciamo un po' a gustarci Anthology of Electroacoustic Music from Finland. Come recita il titolo, dunque affronteremo l'elettroacustica di scuola finnica, compreso anche dei passaggi a livello di folk, riprendendo anche la strumentazione tipica dei pastori proprio antichi della Finlandia. Quindi una fusione molto interessante tra questi due elementi. Auf dem Grund der Dinge gibt es eine Schleuse. Nomi ovviamente sconosciuti, o almeno credo anche a voi che state all'ascolto. Qui peraltro c'è scritto nelle note di copertina, che vi consiglio di leggere, che diciamo la tradizione elettroacustica in Finlandia è iniziata negli anni 50 attraverso strumenti autocostruiti, il sacco valo piano o electric light piano, molto interessante, la cui prima diciamo progettazione risale addirittura al 1894, e quindi capirete la tradizione interessante che proviene da laggiù. Iniziamo con Pecco Cappi e questo Transrational Folk Song numero 9. E poi le prime parti di Kalavirea del finlandese Coelius. Ma anche di psichedelia, di certi passaggi di krautrock, questo inizio riguardante la compilation dedicata alla scena sotterranea finlandese. Finnish Music Survey, Anthology of Electroacoustic Music from Finland. Saluto Alicia Sardina. Abbiamo cominciato a conoscere questa compilation con Picco Cappi e Coelius. Questa lunga traccia Calavirea, la seconda parte ce l'ascolteremo al nostro ritorno in settembre. Chris Florido conferma ciò che ho detto qualche minuto fa, il forte legame con le loro radici pagane, presenti in genere musicale che apparentemente distante, oppure effettivamente distante. Un legame anche col loro passato arcaico, che loro rivendicano, a cominciare anche dalla strumentazione, che potete anche apprezzare sotto la mia voce. Qualcosa di Amondul. Allora, si va avanti comunque e arriviamo qui in Italia con il primo artista italiano, lui è Elio Martuscello, talento anche lui nel campo della cosiddetta elettroacustica. E la sua ultima fatica porta il nome di Esercizi per esistere, esce attraverso la Dissipazio, marchio a noi molto caro, di Raffaele Quiriconi. La ottava traccia si chiama La luce ti sfiora e la decima porta il nome di Mappa. Just feel the sun on your skin. We'll be right back. Uno dei lavori più interessanti del Dissipazio del 2024, Esercizi per esistere di Elio Martuscello. Punto di riferimento della scena elettroacustica italiana. Impulsi sconnessi, elettronica macerata e disturbata, che in parte effettivamente ci hanno ricordato anche i Matmos, qui molto popolari. Interessante l'apporto vocale anche di Alexandra Starashuk. I testi sono estratti da un libro, peraltro venduto insieme all'album stesso, di Nasim Comunale. E si rimane in questa etichetta toscana, però ce ne andiamo in Giappone, almeno credo venga da là Leo Okagawa, a giudicare dal nome. L'album si chiama Density e, a differenza di Elio Martuscello, l'influenza maggiore ritengo sia quella dei Panasonic, anche loro apprezzati da chi è affezionato alle selezioni di prove tecniche di trasmissione. Tre testimonianze abbastanza brevi: Manufacture, Rapture e Matter. Density, Leo Okagawa.